Europa 24. Ancora buongiorno da Gigi Donelli. Noi ripartiamo dalla Libia. Sono decine le famiglie che hanno lasciato Sirte temendo un ulteriore peggioramento della sicurezza dopo che da sabato ci sono stati combattimenti tra miliziani delle brigate di Misurata e i jihadisti dell'ISIS che controllano la città. Citando testimoni, le fonti libiche raccontano che i jihadisti dell'ISIS hanno minacciato gli abitanti e gli hanno appunto intimato di non appoggiare in nessun modo i miliziani. Insomma, stretti tra due forze, continua la fuga dalla Libia. Al servizio. Bernardino Leoni, inviato dell'ONU, giovedì prossimo sarà a Rabat per far ripartire il negoziato e dare vita al governo di unità nazionale libico. Della questione si occupa concretamente anche l'Unione Europea, che ha redatto un documento nel quale si certifica che non appena ci sarà un accordo fra le fazioni libiche, Bruxelles è pronta ad aumentare il suo sostegno alla Libia con tutti gli strumenti del caso. La proposta finale dell'UE, promette Mogherini, alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, sarà al più tardi sul tavolo del Consiglio degli Esteri del 20 aprile. Intanto vengono riprese le dichiarazioni di Achila Saleh, il presidente del Parlamento libico di Tobruk. Saleh ha ribadito che l'Italia sarebbe nel mirino dei terroristi. In particolare, in un'intervista all'ANSA, ha riferito che l'ISIS e Al-Qaeda possono passare dalla Libia all'Italia. Per questo motivo ha chiesto che l'Italia tolga l'embargo imposto all'esportazione legale di armi verso la Libia. La replica del ministro degli Esteri Gentiloni: l'Italia farà la sua parte e sarà in prima linea nel sostenere il governo di unità nazionale. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Tre soldati ucraini sono stati uccisi, altri cinque sono rimasti feriti nelle ultime 24 ore nel Donbass, nonostante la tregua sancita con gli accordi di Minsk 2. Lo riferisce il portavoce delle forze armate di Kiev, Andriy Lysenko. Intanto la Russia continua a mostrare i muscoli sullo sfondo proprio della crisi ucraina. Secondo una fonte del Ministero della Difesa di Mosca, citata dall'agenzia TASS, il Cremlino ha deciso di schierare bombardieri strategici Tupolev Tu-22M3 nella penisola di Crimea. È passato un anno da quando la maggioranza russofona della penisola di Crimea ha scelto di tornare nell'alveo della Federazione Russa. Il referendum e la successiva annessione firmata da Putin non sono mai stati riconosciuti dall'Europa, anzi condannati come atti di violazione del diritto internazionale. Una sfida alla sicurezza, ha sottolineato l'alto rappresentante Mogherini. L'Unione resta ferma sulla posizione di non riconoscimento e la ribadirà, se necessario, anche attraverso nuove misure restrittive. Giovedì e venerdì a Bruxelles il presidente del Consiglio europeo, il polacco Tusk, tenterà già la carta della proroga delle sanzioni, che scadono a luglio, fino alla fine dell'anno, ma non tutti sono d'accordo. I think it was pretty clear that the EU wouldn't recognize the annexation. Penso sia abbastanza chiaro, dice Amanda Paul, analista del Centro Europeo di Politica, che l'Europa non possa riconoscere l'annessione perché la Crimea è parte dell'Ucraina e non della Russia. Credo, aggiunge la Paul, che a luglio l'Unione dovrà aumentare le sanzioni per il deterioramento dei diritti umani nella penisola. Sebbene i leader europei non siano tutti d'accordo allo stesso modo sulle misure restrittive, i messaggi inviati all'indirizzo di Putin sono forti. Il 9 maggio, giornata della vittoria in cui la Russia celebra la capitolazione della Germania nazista, sulla Piazza Rossa non ci saranno né Tusk, né Cameron, né Merkel. La cancelliera andrà il giorno dopo per deporre una corona sulla tomba del milite ignoto. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E con questo è tutto per Europa 24, che torna domani alle 14. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.